strelita da lontano cielo. Tu vedi il mio dolor, tu sai del mio soffrir, scendi e dimmi se lei m'ama ancora, perché triste solo è questo cuor che diede a te. Estrellita del lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir, baja y di. Tu sola puoi dare la luce al cuore, estrellita di mio ancora, perché triste solo è questo cuore che vuole da te.